1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Ci siamo, sono le 7:18 minuti e cari ascoltatori, chiariamolo subito, è in corso la 91esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Ma come mi scrivono già su Twitter? Ma è stata approvata al Senato? È vero, è stata approvata al Senato, ma manca un passaggio alla Camera, ci sarà forse entro fine aprile, quindi se permettete, se lor signori permettono e si informano prima, continua a contare, perché le settimane decisive per la legge elettorale, quando sarà legge dello Stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, noi e io felicemente, ripeto felicemente, smetterò di contare. Siamo invece nella 91esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, lì conteremo, non lo so, credo un paio d'anni ancora, chi lo sa. Vedremo, ottimismo. Intanto oggi parleremo che cosa? Di sequestri. Ha colpito me, ma credo ha colpito molti, la lettera che è stata pubblicata 2 giorni fa sul Corriere della Sera da una donna che oggi ha 88 anni e che fu in passato sequestrata in Italia insieme al figlio. Un sequestro brutale da parte dell'anonima Sequestri Sarda e che oggi ha scritto al Corriere per dire: ma com'è che allora lo Stato non fece nulla per la mia famiglia, mentre oggi lo Stato tratta con i terroristi il caso di Vanessa e Greta? Ne parleremo dalle 8:15, sarà ai nostri microfoni. Ora i giornali. In questo mercoledì 28 gennaio il Sole 24 Ore si concentra ancora sulla Grecia nel titolo di apertura: debito greco no ai tagli, cade Atene e bond al 10%, la caduta della borsa. E poi la grande marcia verso il Quirinale per il Corriere della Sera. Quirinale, si lavora su 3 nomi e sono Mattarella, Amato e Padoan. Repubblica, Colle, prima intesa, sarà un politico, Italicum sì al Senato. Il Fatto Quotidiano invece ha trattativa Stato-Mediaset, l'ultimo ricatto di Berlusconi. Per la Stampa, Renzi pensa a Mattarella. Libero identikit del nuovo presidente. Il Giornale, Quirinale, l'accordo non c'è. Questi alcuni dei titoli, oppure il Messaggero, Colle si stringe su un politico. Come vedete, la maggior parte delle aperture sono sul Quirinale. Ormai ci siamo, eh? Questa settimana forse ci sarà il Presidente della Repubblica. Voglio partire però da alcuni articoli di cronaca che mi hanno colpito. Il primo, le sentenze di condanna per 47 rappresentanti degli oppositori alla TAV, per un totale di 142 anni di carcere in totale. Le violenze furono dopo un corteo del 2011. C'è stata anche una protesta in strada, ovviamente ci saranno i ricorsi, sono sentenze di primo grado per lesioni, danneggiamento, violenza pubblico ufficiale. Questi 47 attivisti del movimento condannati, per la verità per la Stampa gli anni in totale sono 145 anni e 7 mesi di reclusione. Le pene oscillano tra 250 euro di multa e 4 anni e 6 mesi per Paolo Maurizio Ferrari, modenese, 69 anni, tra i fondatori delle Brigate Rosse. 30 anni di carcere alle spalle senza mai dissociarsi né pentirsi. 2 interviste fatte dalla Stampa, interessanti, a pagina 2 e 3. Tra i condannati Giorgio Rossetto, storico antagonista torinese, leader di Askatasuna, cioè l'ala dura dei Notav. Sentite cosa dice, intervistato dalla Stampa. Rossetto: ci sono stati più di 200 feriti tra le forze dell'ordine. Può succedere? Questa è la risposta. Tutto qui, chiede la Stampa, può succedere? Io ho scelto di difendere questa valle. Dal mio punto di vista è importante il fatto che siamo partiti in 53 e siamo arrivati alla sentenza in 53 senza patteggiamenti e senza retromarce. Quindi secondo lei è legittimo difendere la valle anche con la violenza? Lo ripeto, può succedere. Questo è il leader di Askatasuna. La Stampa intervista a fianco anche uno dei poliziotti che è stato un agente del reparto antisommossa, lo definisce Mario, 32 anni, una moglie e un figlio piccolo, che è rimasto colpito. Marciavo con i miei colleghi su un crinale sotto una pioggia di pietre e bulloni. Sono stato centrato da un grosso masso a un ginocchio. Al momento non ci ho fatto caso, ma quando mi sono fermato e ho cercato di riprendere il cammino, l'articolazione ha ceduto. Frattura esposta del ginocchio. Le lesioni si sono rivelate più gravi del previsto. A distanza di 4 anni non ho più ripreso la vita di prima. Per quel che riguarda gli imputati, ci li ho visti in tribunale. Se avessi potuto parlare loro, gli avrei detto che ci sono molti modi per esprimere dissenso senza ricorrere alla violenza, all'odio, senza ridurre un lavoratore come me in questo stato. Vabbè, questa è la vicenda di cronaca, anche se la vicenda di cronaca giudiziaria che più mi ha colpito, cari ascoltatori, è questa. Io non ci voglio credere, non perché sono un buonista, penso che queste cose non possano succedere, ma già aver letto di un caso, uno, di un aborto che sarebbe stato procurato apposta, simulando un incidente per ottenere risarcimento da parte di una coppia, da parte di una donna, immagino anche di una coppia, già aver letto questo dico no, vabbè, ma siamo caduti veramente in basso. Ma leggere le due pagine del quotidiano nazionale, del Giorno, a pagina 10 e 11, e leggere che secondo la polizia e gli inquirenti non c'è un caso, ma sarebbero decine i casi di donne che rimangono incinta solamente per simulare poi un incidente stradale, abortire e incassare il risarcimento delle assicurazioni. Leggete qua, Nino Femiani, pagina 11. Decine di donne lo avrebbero fatto. È lo scenario terribile che emerge dalle indagini di polizia e guardia di finanza a Cosenza sui falsi incidenti stradali che hanno portato all'operazione Medical Market, cioè mercato della medicina. Ecco, gli inquirenti hanno arrestato e posto ad omicidiare una donna di 37 anni, Stefania Russo, un medico dell'ospedale di Corigliano Calabro, Sergio Garasto, altre due persone accusate tutti di infanticidio. Ci sono 142 persone indagate. La donna, con la complicità dei sanitari e degli altri due arrestati, ha volutamente partorito al sesto, settimo mese e poi ha lasciato morire il figlio solo per incassare 80.000 euro di indennizzo assicurativo, simulando un incidente stradale mai avvenuto. Oltre all'episodio, l'attenzione degli investigatori si concentra su un secondo caso di gravidanza avanzata, mentre sullo sfondo ci sono almeno una dozzina di casi sospetti. Io non lo so, ma che bisogna commentare di fronte a una cosa del genere? Cioè, c'è anche c'è il commento, sì, di Laura Alari, il più barbaro dei delitti. Non so, non riuscirei neanche a scrivere 3 righe di fronte per commentare una cosa del genere se confermata. Cioè, bambini fatti morire per fare finta che siano stati vittima di un incidente e quindi vittima di un aborto in caso di un incidente e incassare il premio assicurativo. Cosa vi devo dire? Vabbè, veniamo alla cronaca, come dire, diversa, anche se certo suscita qualche polemica, e la sta suscitando una legge che il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato. È una legge che vale per tutti i luoghi di culto, imponendo delle restrizioni per creare un luogo di culto molto molto stringenti, ma che subito è stata letta da tutti e sicuramente così com'è, una legge della Regione Lombardia contro la costruzione di moschee. Questo titola per esempio La Stampa: la legge anti-moschee si abbatte su tutti i culti, polemica in Lombardia. È stata proposta dalla Lega, così anche Repubblica, Via Libera in Lombardia, la legge anti-moschee. In pratica è stata approvata una legge della Regione Lombardia, mentre tra l'altro il Comune di Milano è impegnato da mesi in un dialogo con le comunità islamiche per garantire la costruzione di una moschea a Milano, e quindi qui si legge proprio la legge appunto fatta per ostacolare questo. E cosa prevede? Per creare un luogo di culto c'è la possibilità per i comuni di indire un referendum per autorizzare i progetti. Ci vogliono parcheggi di dimensione almeno doppia la superficie del luogo di culto, telecamere per la videosorveglianza collegate con le forze dell'ordine, rispetto del paesaggio lombardo che sarà valutato dal parere obbligatorio di una consulta regionale. Via libera della valutazione ambientale strategica che prevede tra l'altro anche il parere dei cittadini. Insomma, sembra una legge, scrive Repubblica, scrive anche la stampa, fatta apposta per impedire ciò che il Comune di Milano sta cercando di fare. Infatti dal Comune di Milano l'assessore Maiorino fa sapere il bando comunale andrà avanti lo stesso, è stato pubblicato prima del via libera della nuova legge, quindi noi andiamo avanti con la costruzione o comunque con il progetto per la costruzione di una moschea. Questo certamente fa discutere, mentre fa tenere certamente le mani sul volante un piccolissimo articolo di poche righe che appare sul Corriere. Ma attenzione, a pagina 11, tenetele ben strette le mani sul volante, ricordate la vicenda delle ferie dei magistrati, 45 giorni sono troppi, scendano a 30, il premier ci vuol far crepare di lavoro, non è vero, vergogna. 5 righe sul Corriere, 5. Titolo: ferie dei giudici. Restano 45 giorni. I giorni di ferie dei magistrati restano 45 invece dei 30 a cui puntava il governo. E io mi sono chiesto, e perché? Eccolo qui. Il decreto con cui il governo ha tagliato i giorni di vacanza dei magistrati, secondo l'interpretazione del CSM, cioè l'organo di autogoverno dei giudici, è stato scritto male, visto che la norma per ridurre le ferie è stata aggiunta senza abrogare la vecchia disciplina. Il risultato è che le ferie dei giudici resteranno quelle di prima. Oh, hanno scritto male il decreto. Porca miseria, che distrazione. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, il barbaro d'urso dell'informazione. Oh, vabbè, preferisco il Rossello Brescio dell'informazione. Però barbaro d'urso, va bene, accettiamo tutto, caro ascoltatore, va bene così. Allora, è la settimana della scelta per il Quirinale dopo Giorgio Napolitano. Chi siederà sul colle per 7 anni lo scopriremo forse sabato, ovviamente sui giornali è l'ennesimo elenco di nomi. Il Corriere della Sera dedica le prime 9 pagine a questa vicenda, retroscena, intrighi, incontri. Una cosa è certa per Repubblica, oggi Renzi incontrerà Berlusconi, questo è certissimo, più incerto se incontrerà o meno Bersani, che io mi sono detto, ma insomma chi è l'alleato e chi è l'opposizione, perché vengono dei dubbi. Comunque, vediamo un po' i giornali cosa dicono del Toto Nomi. Per il Corriere della Sera, l'articolo è di Maria Teresa Meli e Francesco Verderami, a pagina 3, i nomi sono 3. E sono Amato, Mattarella e Padoan. La situazione è presto detta. Amato è il presidente che sarebbe più gradito a Bersani e Berlusconi. E allora qui c'è l'inghippo, perché invece Renzi non vorrebbe e si sente già stritolato dalla scelta di un nome, Amato, che è gradito soprattutto a un avversario politico, Berlusconi, esterno, e a un avversario politico interno, Bersani. Teme, insomma, di essere stretto nella morsa di questo nome. Ecco che, secondo invece la stampa, Renzi avrebbe il suo nome, cioè Mattarella. Però lo deve far digerire a Berlusconi, per questo si incontreranno a pranzo, perché Mattarella è poco gradito a Berlusconi. Berlusconi invece vorrebbe Amato, e non è un mistero. Cioè non è detto pubblicamente, queste cose non si dicono mai pubblicamente, ma è così. Sta di fatto che anche Goffredo De Marchis, a pagina 2 di Repubblica, racconta retroscena con Matteo Renzi, che vede oggi Berlusconi e Bersani. Per la verità il primo colloquio è confermato ufficialmente, mentre il secondo viene tenuto per il momento nascosto, appunto. C'è un pressing fortissimo per Amato, racconta ai suoi più stretti interlocutori Renzi. La verità è che a favore di quella candidatura si è saldato un asse di ferro tra Berlusconi, D'Alema e Bersani. Vediamo se decidono di battezzarlo nei colloqui. Ecco, potete capire che Repubblica, se Amato è scelto da Berlusconi, D'Alema e Bersani, Renzi lo vede come un incubo. L'assedio che Renzi denuncia stimola la sua innata diffidenza. A quel punto io devo subito contrapporre l'alternativa. E l'alternativa sarebbe Mattarella. Mattarella per Repubblica, Mattarella per il Corriere. Addirittura La Stampa lo mette come titolo di prima pagina. Renzi pensa a Mattarella. E gli altri? E gli altri, chi lo sa, in realtà tutti in silenzio sperano. Fassino pare che abbia annullato tutti gli impegni da sindaco di Torino e presidente del Lanci, non si sa mai. Padoan, ieri c'era una collega di Sky che gli ha chiesto: ma lei è contento che il suo nome... Queste domande non si fanno, gli ha detto. E così, tutti profilo basso. Lo so che voi che state facendo le colazioni, come al solito, sì, vi interessa sapere, anche a me interessa, a tutti interessa sapere chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica. Ma di tutto questo totonomi e tutti questi incontri, questi inciuci, di queste non ce ne frega nulla, lo so. Ma come sempre sono loro che sbagliano e siete voi che fate bene, non vi preoccupate. Grillo invece pare che oggi faccia le quirinarie, prima smentite, anche qui ai questi microfoni l'onorevole Carla Ruocco due giorni fa diceva: no, le quirinarie noi non le facciamo stavolta. Oggi pare che facciano le quirinarie con Prodi come candidato numero uno e forse con altri tre nomi. Certo, però Grillo, o meglio il Movimento 5 Stelle, ieri ha vissuto una giornata di passione, diciamo così, politica. 9 sono usciti dal Movimento e alcuni di questi, soprattutto Walter Rizzetto, ieri ha tentato di andare al Nazareno per cercare di ascoltare, insomma, le proposte del Partito Democratico. È stato letteralmente blindato e fermato da una folla di militanti che gli urlavano di tutto, vergogna, qualcuno parla anche di sputi. Walter Rizzetto viene intervistato da Repubblica, pagina 6, e dice: non ce la facevo, mi hanno impedito di andare, un accerchiamento fisico, ho preso anche 2 botte, non so se sono volute o meno. Gli sputi invece sinceramente non li ho sentiti. Ma che ne pensa? Beh, cosa vuole che penso? Grillo dice sempre che siamo gandiani, stasera abbiamo avuto la riprova. Anche sul Corriere, questa era l'intervista concessa a Tommaso Ciriaco su Repubblica, anche sul Corriere della Sera, pagina 2, Alessandro Trocino racconta i fuoriusciti dei 5 Stelle bloccati dai fedelissimi all'ingresso del Nazareno, al grido di venduti e traditori. Carla Ruocco dice: se li sono accattati, come dire, comprati. Mentre Walter Rizzetto, eccola qui, c'è stato un attacco squadrista, tra l'altro nel giorno della memoria. Mentre Paolo Nicolò Romano, deputato, è sicuro, si tratta di soldi. Ho visto un SMS in cui si offrivano molti soldi, poi precisa, ma non era su un cellulare di uno dei 9 che sono usciti. Comunque, oggi si terrà un'assemblea dei 5 Stelle alle 9 e forse faranno le quirinarie. Tra l'altro il giornale racconta che c'è un problema processuale per Beppe Grillo. Paolo Bracalini lo racconta a pagina 6. In un comizio attaccò duramente il professor Franco Battaglia con queste parole: non vado a mediare a un coglione che va in TV a dire una cazzata e vuole il contraddittorio. Quando parli con un imbecille, uno che vede dall'esterno vede 2 imbecilli che parlano. Non puoi permettere a un ingegnere dei materiali e neanche a un ingegnere nucleare, parlo di Battaglia, consulente delle multinazionali, di andare in TV e dire con nonchalance che a Chernobyl non è morto nessuno. Io ti prendo a calci in culo e ti sbatto fuori dalla TV, ti prendo un avvocato e ti denuncio e ti mando in galera. Queste frasi sono state ritenute diffamatorie dal professor Battaglia, che ha querelato Grillo, e il tribunale di Ascoli Piceno ha ora rinviato a giudizio Beppe Grillo, e dunque c'è il processo, ci sarà il processo e si vedrà se c'è diffamazione. E il giornale dice: Grillo rischia 3 anni di carcere. Vabbè, minacce e insulti, questa è una vicenda giudiziaria. Per quel che riguarda invece la politica, interessante quello che scrive il Fatto Quotidiano. Attenzione, il Fatto Quotidiano lo mette in prima pagina come una cosa abbastanza certa. Trattativa Stato-Mediaset, l'ultimo ricatto di Berlusconi, viene definita così. La trattativa è questa, l'effetto Nazareno ha fatto salire in borsa il titolo Mediaset e Mediaset descrive con certezza il Fatto Quotidiano con Giorgio Meletti e Carlo Tecce, siamo a pagina 3, Mediaset è ora in vendita, il momento è arrivato, questo avrebbe detto Berlusconi a tutti i suoi più stretti collaboratori. Vendere Mediaset, che ora vale molto di più di quando Berlusconi invece lasciò il governo. Allora pesava 1,5 miliardi, molto scalabile e poco appetibile. Ora invece è arrivato il momento. Berlusconi ha capito che la guerra con Murdoch tra Mediaset Premium e Sky Italia non conviene a nessuno e tutti sono a vedere cosa farà Vincent Bolloré, presidente di Vivendi, 55.000 dipendenti, quote sparse in Europa e in Africa, proprietario di Canal Plus, finanziere bretone che spesso è in vacanza a Capri e si dice, almeno scrive il Fatto Quotidiano, di recente è stato anche un pranzo ad Arcore con versione ufficiale, presente anche Pier Silvio Berlusconi. Chi lo sa, chi lo sa? Si vende Mediaset forse, ma si tiene Inzaghi. Mauro Meazza, buongiorno, questo è un buongiorno. Bel assist, te l'ho messa a 2 metri dalla porta col portiere buongiorno. Per terra, l'arbitro girato e i difensori tutti distratti, fai un po' te. Un pallone che basta spingere, ma io voglio essere generoso e clemente oggi, non mi sembra il caso di infierire anche sulla se mi attirò rossa, grazie, le grazie. Critiche degli amici nerazzurri, ma insomma... Devo dire, certo la biglia ha le sue regole, come si dice qualche volta. Vabbè. Sei veramente un maledetto. Stavo meditando. Allora, devi sapere che dire toga rossa può essere un elogio. Questa è fantastica, l'ho letta. Dire penna rossa può essere una diffamazione. Esatto. Dire, scusami, spia rossa. E mi chiedevano a dire penna rossa, non so, a te penna rossonera. No, perché è vero, un magistrato si è sentito diffamato da un libro che lo definiva toga rossa e la Cassazione ha detto ma no, in alcuni contesti è un complimento dire toga rossa. Esattamente, ma dire a te penna rossa, non lo so, vabbè, adesso ci stavo riflettendo leggendo appunto il Sole 24 Ore di oggi dove Giovanni Negri mi dà conto di queste decisioni della Cassazione. Volevo dirti poi, i due urini, a parte che magari adesso visto che c'è Mediaset che si vende potrebbe essere un momento di mobilitarti. Se no, li hai mica messi in un BTP trentennale, perché c'è tutto un ragionamento, anzi una bussola, come si chiama, oggi sul Sole 24 Ore, proprio sull'andamento dei titoli di lunga durata. Guarda, io non ti rispondo, ma la leggerò. Ecco, allora, medita anche sul destino dei tuoi due eurini. C'è una buona notizia sulle macchine utensili che hanno fatto un ottimo ultimo trimestre 2014, più 18%, anzi quasi 19%, devo dire. E invece venerdì sciopero dei bancari, continuiamo a parlare del loro contratto, non lo diciamo tutte le mattine, ma ne diamo conto passaggio per passaggio, le cose non vanno benissimo. Ah, e poi c'è una tua foto oggi. C'è una tua foto, sì. Nello sport? A pagina 19, parliamo ancora di sport, ma adesso veramente non vorrei girare proprio il coltello nella piaga, parliamo dei conti della Roma però, ma nelle pagine di finanza. Vorrei anche segnalare, stanno aumentando drasticamente le polizze per i commercialisti, ma perché parlo di commercialisti, caro Alessandro? Perché domani è una giornata decisiva, stavolta per davvero. Telefisco. Vedi che però a furia di dai e dai, certo, le cose poi rimangono le cose importanti, ecco. Esatto. No, decisiva, naturalmente ci saranno altre cose decisive, ma domani soprattutto c'è Telefisco, che è il convegno annuale dedicato alle novità fiscali. Ricordo a tutti quelli che scrivono, gli interisti sono signori, che il maledetto di Mauro Meazza, no, per chi fosse di stato, biglia è colui che ieri ci ha sbattuto fuori. Com'è che hai detto? Mi no, piace. Che la biglia, insomma, ha le sue regole. Ecco, la biglia ha le sue regole. Biglia è colui che su rigore ci ha sbattuto fuori. Il rigore, sai che fa molto discutere in questo periodo, la Grecia, la Germania, i rigori sono un po' quello che sono. Senti, ti voglio anche dire, proprio in ultima cosa, c'è stata una presa di posizione molto dura del ministro Lupi, perché i comuni stanno pigiando parecchio sulle spese di notifica delle multe. E ti spiega tutto Maurizio Caprino, ovviamente, e ovviamente in che pagina, Alessandro, dai, dillo. Ma dai, tu che è facile. Tributi, si sa. Oh, ecco, perché ti parlo di multe stradali proprio adesso? Perché devo salutarti con l'abituale parola di saluto. Traffico! Alessandro Milan, il Franco Baresi dell'informazione. Incredibile come ci servirebbe Baresi. Porca miseria, quanta hai ragione. Ma adesso abbiamo preso Bocchetti. Bocchetti, difensore, viene dalla Russia. Era dove? Nello Spartak. Ieri ho twittato così. Abbiamo preso Bocchetti, fa il calciatore. E questo è stato il mio commento su Twitter. Poi mi hanno criticato dicendo che è un ottimo calciatore. Allora salutiamo l'arrivo del Franco Baresi degli Urali, Bocchetti al Milan. Ripartiremo da Bocchetti. Allora, noi per quel che riguarda invece le 8:15 parleremo di questi sequestri, la vicenda Vanessa e Greta, ancora fonte di polemiche, soprattutto dopo che una donna ha preso carta e penna e ha scritto una lettera al Corriere della Sera, donna che subì un sequestro negli anni dove i sequestri purtroppo erano all'ordine del giorno in Italia, più di oggi. Fortunatamente sono diminuiti, e a dire al ministro degli esteri: ma com'è possibile? All'epoca nulla aiutò, nessuno aiutò la mia famiglia, a parte gli inquirenti, a parte le forze dell'ordine, ma il governo non si mosse. Ci sono allora sequestri di serie A e sequestri di serie B? Ne parleremo alle 8:15. Intanto, da quelle aree, mentre arriva l'ultimatum di altre 24 ore, poi basta anche per la vita del secondo ostaggio giapponese in mano all'ISIS, da quelle aree provengono delle notizie davvero inquietanti. Ieri c'è stata una strage a un hotel dove alloggiavano degli occidentali a Tripoli. La Libia è un paese davvero allo sbando, califfato libico, titola pagina 10 il quotidiano Libero. E anche il Corriere della Sera: Tripoli assalto all'hotel degli stranieri, 11 morti, c'è anche un americano. Tra l'altro, a proposito di sicurezza, perché ho letto degli articoli abbastanza inquietanti su anche come in Libia ormai l'ISIS abbia il controllo delle partenze di coloro che partono dalle coste della Libia e arrivano anche in Italia. Dov'è la sicurezza? Dov'è per esempio il provvedimento annunciato in pompa magna sulla sicurezza, doveva essere approvato dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana? E Fiorenza Sarzanini ne scrive sul Corriere della Sera, pagina 17: l'Italia dei veti incrociati non trova l'accordo contro il rischio attentati. Doveva essere approvato qualche giorno dopo gli attentati di Parigi, mentre il provvedimento antiterrorismo, più volte annunciato, slitta ancora. Tra veti incrociati sulle nuove norme, trattative per la scelta del capo dello Stato, Palazzo Chigi annulla la riunione del governo prevista oggi e rinvia tutto alla prossima settimana, anche se i ministri hanno più volte evidenziato la necessità di avere strumenti più efficaci per fronteggiare la minaccia jihadista. E certo, grandi consultazioni, insomma, per il toto nomi del Quirinale, e intanto le questioni. Anche Libero scrive: per le misure antiterrorismo mancano i soldi, le questioni che attengono alla nostra sicurezza personale vengono per il momento rinviate. Questo è il dato di fatto sancito un po' da tutti i giornali. Però appunto si è approvata la legge elettorale al Senato, guardate che poi tocca alla Camera un ultimo passaggio, perché è stata modificata e dunque c'è un terzo passaggio che ha fatto la Camera. Il Senato però ha detto sì, Renzi esulta, il ministro Boschi fa un'intervista a Repubblica, intervistata da Francesco Bei, dice: finalmente la sera delle elezioni sapremo chi ha vinto senza fare inciuci. Il Corriere della Sera racconta con Fabrizio Roncone come Calderoli attacchi Calderoli, quello che ha fatto la porcata del Porcellum, dice: e beh, e questo chiamatelo Italicum, Expositum, Stronzellum, come volete, ma appartiene sempre alla specie dei suini e quindi del maiale. Quindi io avrò fatto il Porcellum, ma qui c'è un super Porcellum che fa balzi come un cangurum, grazie al quale approviamo emendamenti. Insomma, tra maiali e canguri, alla fine il Parlamento è andato in vacca. Queste parole testuali di Roberto Calderoli. Ecco, comunque trovate anche sulla legge elettorale, se volete. Trovate anche, ve lo segnalo, un articolo di Attilio Bolzoni su Repubblica, pagina 25, che racconta, ed è una notizia, come nella Corleone dei boss sia caduto l'ultimo muro. Ora i commercianti denunciano il pizzo. La notizia, che può essere in altre parti d'Italia, magari una notizia da finire in pagina 20 con un trafiletto in cronaca, merita invece giustamente quasi una pagina su Repubblica. Mentre i clan prosperano al nord, a pochi passi dalla casa di Rina, c'è chi ha deciso di ribellarsi a decenni di paura e omertà. Racconto di come a Corleone alcuni commercianti, alcuni molto noti, qualche settimana fa siano stati convocati in caserma e abbiano confessato il pizzo pagato per anni. È certamente una notizia positiva e meritevole di essere segnalata con una certa enfasi da tutti i giornali. Che dire, siamo quasi in chiusura. Trovate ancora molto di Grecia, trovate anche di sport. Ebbene sì, lo voglio citare, il titolo della Gazzetta dello Sport: la Lazio in 10 per tutto il secondo tempo sbatte fuori il Milan. Dalla Coppa Italia, il Milan fuori, Inzaghi dentro. Ebbene sì, perché Berlusconi dice per ora resta. Vabbè, per ora. Ma siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi. Sulla Stampa, Maria Corbi dedica mezza pagina agli amori incrociati. Sul settimanale Oggi viene ripreso Mario Draghi in foto che fa la spesa con la moglie, con tanto di bacini, dopo tanti anni insieme, senza scorta. E poi, su chi? La Isoardi che svela: mi piace degli uomini il cervello e frequento Matteo Salvini. E Maria Corbi che dedica mezza pagina a questo: gli amori incrociati di Super Mario e Matteo. The power in love! Me ne frecco!